e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, la buona notizia è che è venerdì, è primavera conclamata. Ci sono le viole. Esattamente. L'altra buona notizia è che ritorniamo lunedì, però è dopo il weekend. Quindi attenzione. Non si sa. No, perché no? Dai, cosa vuoi fare? Magari scappiamo. Ma ne parliamo, no, di queste benedette etichette noi a Cuore Denari? L'abbiamo già detto ieri e quindi puntualmente torniamo, anche perché insomma dividono. I semafori dividono e, come abbiamo accennato ieri, accendono le polemiche, esatto, proprio come succede ai semafori delle nostre città. Allora, facciamo riassunto della situazione. Dai. È uno dei temi di cui parleremo questa mattina, poi nella seconda parte avremo i nostri consueti appunto di Cuore e Denari. Si è riaperto proprio in questi giorni questo scontro fra Italia e Unione Europea sul semaforo nutrizionale. Mi approprio, Nicoletta, di termini che sono generalmente approfonditi nella parte di Cuore, perché sei big dell'industria alimentare, io li cito tanto, sono su tutti i giornali, sono Coca-Cola Company, Mars, Mondelez International, Nestlé, PepsiCo e Unilever, hanno proposto alla Commissione Europea un'etichetta per i prodotti alimentari con i colori rosso, giallo e verde secondo i contenuti di sali, grassi e zuccheri riferiti alla porzione. Ho capito bene, Nicoletta? Esatto. La questione è questa. L'etichetta riporta per 100 grammi di alimento il contenuto in grassi, grassi saturi, sale e zucchero ed evidenzia con i colori del semaforo i valori elevati di media e bassa intensità. Ottimo. Allora, intanto non è un tema nuovo, perché a parte il fatto che in Gran Bretagna ce l'hanno, certo, è una polemica che si ripropone in maniera abbastanza frequente tra Roma e Bruxelles. Il ministro dell'agricoltura, appunto delle politiche agricole, Maurizio Martina, ha preso una posizione molto forte su questo argomento, ha detto: ribadiremo con forza il nostro no a questo sistema, perché, dice, vogliamo impedire la diffusione di un elemento così distorsivo del mercato. Ci sono anche delle cifre, perché Coldiretti dice che si mettono a rischio i 28 miliardi di export agroalimentare made in Italy in Europa. Chissà i consumatori italiani che ne pensano. Allora, chissà i consumatori che ascoltano Cuore Denari, a noi interessano loro e a loro invitiamo a intervenire in diretta all'800 24 00 24. Esatto. E allargando il tema chiediamo anche su quali sono i criteri che orientano la loro spesa. Sono noi le offerte, abbiamo tante volte le offerte, magari l'offerta, le promozioni sotto costo 3x2 e quant'altro, oppure la stagionalità, il chilometro zero. Raccontateci, perché oggi parliamo anche di spesa. Esatto, e soprattutto se leggete l'etichetta, di che cosa andate a caccia, di quali informazioni, e se secondo voi questo semaforo sarebbe utile per magari fare, proprio come dire, con il colpo d'occhio, una sintesi delle qualità nutrizionali dell'alimento, e quindi magari per voi sarebbe una comodità. Detto questo, abbiamo due ospiti. Le scorciatoie sono sempre un po' pericolose. Lo so, qualcosa perdi, qualcosa guadagni in tempo, ma qualcosa perdi. Esattamente. Lo scopriremo strada facendo. Allora, noi abbiamo invitato a discuterne con noi in questa prima parte di Cuore e Denari intanto Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, che salutiamo perché è un grande amico di Radio 24. Presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Grazie per essere con noi. Che abbiamo anche con noi. E noi abbiamo anche il dottor Andrea Ghiselli, ricercatore Crea Nutrizione. Buongiorno, dottor Ghiselli, bentornato e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, l'abbiamo ricordato il numero verde, sì, l'800 24 00 24. Ricordiamo che possono anche inviarci WhatsApp, vocali e non, al 349 238 6666. Magari anche qualcuno messaggi. Al supermercato adesso ci sta ascoltando, certo. E così lo stiamo invogliando proprio a dare un'occhiata alle etichette. Se ci volete mandare anche una foto, noi come sempre le monitoriamo volentieri con attenzione. Allora, presidente Scordamaglia, lei è stato abbastanza rigido nella sua presa di posizione su questa questione, esattamente come diceva Nicoletta poco fa, un po' la considera una scorciatoia. Parlando con l'ANSA un paio di giorni fa, ha detto: è un sistema semplicistico, non in grado di garantire ai consumatori un'alimentazione equilibrata, un sistema che diventa addirittura discriminatorio rispetto a prodotti di qualità ed eccellenza, che sono quelli italiani. Presidente Scordamaglia. È assolutamente così, ma d'altronde lo capirebbe chiunque. Un sistema semplicistico che attribuisce a prodotti come quelli della nostra tradizione, della nostra industria, non so, lei lo ricordava, il parmigiano reggiano, olio extravergine d'oliva o i nostri fantastici salumi, un bollino rosso semplicemente perché hanno magari un microgrammo in più di sale o un microgrammo in più di grasso, e poi avvantaggia invece con un sistema colorimetrico verde, incentiva l'acquisto di prodotti fatti con ingredienti assolutamente di qualità, sicuramente inferiore, di qualità inferiore, è una cosa lontanissima dal modello alimentare italiano. Quando io dico non, l'industria alimentare italiana non lo vuole, intendo chi fa 132 miliardi di euro di fatturato di questo paese, che ha da sempre puntato sulla qualità del prodotto, che si è sempre posizionato su uno standard di qualità estremamente alto, per cui è un, diciamo, a secondare è un sistema che arriverei a dire benevole nei confronti dello stesso consumatore, perché lascia pensare che basti sostituire un prodotto naturale come lo zucchero, come qualsiasi altro prodotto, con un prodotto di sintesi che cambia semplicemente la composizione chimica, e quindi che da un calcolo puramente matematico dà un microgrammo in meno di una sostanza, per essere senza considerarne in nessun modo la qualità intrinseca. Certo, ma quindi, quale sarebbe l'obiettivo allora delle 6 multinazionali in questione nel adottare questo sistema? Beh, ovviamente questo dovrebbe chiederlo a loro e non a me. Ripeto, credo che si tratti di modelli molto lontani dal nostro. Io preferisco parlare di che cosa ha generato questo sistema nel Regno Unito. Ricordiamoci che all'origine nel Regno Unito il sistema semaforico è stato introdotto da catene distributive con lo scopo di avvantaggiare delle proprie private label al ribasso, cioè di prodotti che mimavano i nostri prodotti senza arrivare in termini di qualità, e per renderli più appealing, più appetiti dal consumatore, si provava a dargli questa benedizione, questa santificazione verde legata, ripeto, al microgrammo in più o meno di sale. Io credo che non sia questa la strada. L'industria alimentare italiana da anni ha ridotto la quantità di sale nei propri formaggi, nei propri salumi, nei propri prodotti, ha ridotto la quantità di grasso, ma senza alterare la qualità intrinseca dei prodotti stessi. Questa è la via da seguire, tutte le altre semplificazioni e scorciatoie, come voi dicevate, sono pericolose e ingannevoli. Perché credo, dottor, vorrei coinvolgere anche il dottor Ghiselli, perché l'intento probabilmente buono è quello di aiutare i consumatori a scegliere in un'ottica di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, ma dottor Ghiselli, questo modello rischia di farci perdere di più di quello che possiamo guadagnare. La prima considerazione che mi viene spontanea riguarda la quantità presa in esame, sono 100 grammi che sicuramente non rappresentano una porzione standard. Mi diventa un po' difficile immaginare una persona che si assume 100 grammi di olio extravergine d'oliva, nonostante abbiamo ripetuto tante volte che è un farmalimento. Ecco, non è che 100 grammi di olio extravergine d'oliva entrano nella nostra dieta, quindi una considerazione che già potrebbe così aiutarci a fare una riflessione su questo semaforo. Certo, perfettamente d'accordo con quello che sta dicendo e perfettamente d'accordo con quello che diceva l'amico Scordamaglia prima. Noi il sistema di mettere un bollino rosso o un bollino verde su un alimento è estremamente pericoloso per due motivi. Il primo, perché si rischia di appiattire sullo stesso piano alimenti con qualità nutritive diverse, ma che magari sono tutte e due alti in grassi, ma qualitativamente molto diversi tra di loro. E poi si rischia di ingenerare o di consentire un consumo smodato di quegli alimenti il cui bollino sia verde o arancione. E siccome è la quantità alla fine che fa la dieta, diciamo quantità e frequenza di consumo che fanno una dieta salutare o non salutare, e non gli alimenti, non esistono alimenti sì o alimenti no. L'alimento è sempre sì, ma nel senso che lo devi consumare sapendo come consumarlo. E in questo l'etichetta aiuta moltissimo, indipendentemente dal bollino rosso, verde, blu o bianco. Perché sull'etichetta noi abbiamo le GDA che ci dicono che se mangiamo un tot, faccio per dire, biscotto, stiamo prendendo per quella porzione di biscotti, stiamo impegnando il, dico numeri a casaccio, 10% delle calorie, 15% dei grassi saturi, 8% di sale, in modo che io so che l'alimento dopo mi dovrà colmare le differenze e appianarle, in modo che poi mi porta a casa il 100% di tutti i nutrienti. Allora, noi, Deborah, sei d'accordo? Diamo la linea al traffico, ritorniamo subito dopo, invitando naturalmente i nostri ascoltatori a intervenire, a confrontarsi con i nostri esperti, a raccontare la loro esperienza, il loro punto di vista. 800 24 00 24, semaforo verde. Esatto, al traffico. Magari proveremo anche a fare, tanto per farlo capire ai nostri ascoltatori, un po' di esempi su quali alimenti potrebbero essere, come dire, colpiti da questa etichettatura proprio in termini negativi. Ci proviamo, certo, magari ce n'è uno molto noto che un'ascoltatrice segnala, dice: l'idea che quell'alimento là, una crema molto nota, possa essere colpita dal bollino rosso non mi fa dormire la notte. Detto questo, però, se ha questa consapevolezza l'ascoltatrice che un consumo smodato di quell'alimento non va bene, il semaforo ce lo mettiamo già da noi, no? Qualche volta. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Cuore e Denari. Eccoci ritrovati con l'etichetta a semaforo sugli alimenti, questa iniziativa già adottata in Gran Bretagna, che prevede questo bollino di colore rosso, giallo o verde a seconda del contenuto di grassi saturi, sale o zuccheri, che si basa su ogni pezzo di prodotto, non sulla quantità effettivamente consumata. Iniziativa che si discute a Bruxelles, potrebbe essere presa anche appunto in Europa, secondo l'auspicio di grandi multinazionali, dei giganti appunto dell'alimentazione e non solo, ma naturalmente arriva alla netta presa di posizione molto forte anche del Made in Italy italiano. Ne stiamo parlando, no, questa mattina, Nicoletta, non solo per la questione dell'industria, le ricadute, ma anche dal punto di vista della nostra salute, perché il semaforo, è vero, permette di acquisire rapidamente informazioni perché vediamo il colore, ma come sappiamo bene, la sintesi fa perdere una mole di informazioni che possono essere davvero molto utili, quindi il rischio, come anticipavano i nostri esperti, è che prodotti tra loro anche molto diversi condividano la stessa sorte, lo stesso colore. Con chi riprendiamo? Con Ghiselli? Dottor Ghiselli? Sì, c'è anche un'altra cosa che dobbiamo dire, è che il colpo, questa è una cosa che non fa... diciamo, sposta la responsabilità dal consumatore agli altri, cioè al produttore a questo punto, perché è il produttore che deve dire sì, questo alimento ti fa bene, questo alimento ti fa male, questo lo puoi mangiare, questo non lo puoi mangiare. È un po' una deresponsabilizzazione, no? Oltre al fatto che, ripetiamolo, appiattisce determinati alimenti e invece ne potrebbe dare libertà di consumo. In questo modo deleghiamo agli altri la possibilità di scelta, che deve essere nostra. Perché deleghiamo agli altri e non impariamo mai. Sì. Perché se noi leggiamo l'etichetta attentamente, noi impariamo costantemente. Il fatto è che forse non ci va di farlo. Infatti. Allora, sentiamo qualche amico che ci segue da casa, dai, poi gli lasciamo poi il commento finale. I nostri ospiti, c'è anche, oltre al dottor Andrea Griselli, Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, si è candidata ad intervenire. Intanto Sandra da Roma, poi abbiamo Riccardo dalla provincia di Milano. Vedi che tema divisivo ma di grande interesse fra i nostri amici. Sandra, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, senta, io sono contrario anch'io a questa etichettatura. Oh, perché... vede, no, Sandra, io guardi, questa mattina alle 3 stavo leggendo Guida al benessere, voi non lo sapete ma siete i miei miti, vi adoro, guarda, e io andrei insieme ai contadini, a tutti quanti, in giro per reclamare la squisitezza e la bontà dei nostri prodotti. Io sono per l'acquisto dei nostri contadini, guardi, io seguo Goldiretti, la campagna amica, campagna amica. E vado a comprarmi queste cose da loro, confermo. Sa, tra l'altro, come è finita la storia del loro mercato lì a Circo Massimo? Dov'è Sandra? A Circo Massimo purtroppo è finita, però è finita qui a Palocco, l'infernetto qui vicino Ostia, cioè, io ho i col diretti e poi Campagna Amica alcuni sabati del mese portano la carne, i prodotti vicino casa, praticamente io mi prenoto e vado lì. E via. Quindi lei è proprio del tutto distante da questa faccenda, che però purtroppo sa Andrea riguarda i colossi, e quindi hanno voce in capitolo importante molto spesso. Però vedi, Sandra sceglie come suggeriva il dottor Ghiselli, homo faber fortune sue, dobbiamo scegliere. Ma sentitemela stamattina. Riccardo dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma buongiorno anche lei. Buongiorno, allora io intanto saluto tutti e vi saluto per la bellissima trasmissione. L'argomento è interessante. Per quanto mi riguarda, conoscendo un po', avendo girato un po' nel mondo, in particolare nel mondo anglosassone, non mi stupisco che l'iniziativa sia partita dall'Inghilterra, perché hanno una mentalità alimentare, basta girare un po' in Inghilterra e poi andare anche negli Stati Uniti, ma anche in Europa, completamente diversa dalla nostra. E pertanto è una questione culturale. Sì, diciamo l'approccio anche proprio all'alimento, secondo me, è molto, molto differente. L'attenzione, la cura, la scelta praticata dall'italiano, dici di no, Nicoletta, rispetto all'anglosassone, con tutto quel burro che c'è dentro i loro biscotti. Ma dove? Appunto, siamo più attenti. Loro hanno il terrore, se uno va negli Stati Uniti, io sono appena tornato, tutto cholesterol free low fat, low fat, sì. E poi mangiano l'organic food pieno di zucchero. E poi si riempiono di zuccheri. Lo so. Ma insomma, ma questi poi dipende inglesi, anche dalle dai. Aree. Io sono andata a San Diego, poi te lo ricordi, Nicoletta, certo. Ti raccontavo, è pieno di supermarket di cibo organico e lì c'è una meraviglia in senso diverso. Detto questo, comunque, insomma, dobbiamo responsabilizzarci in maniera individuale un po' tutti. Ci mettiamo l'ultima considerazione di Luca da Milano, poi andiamo alla chiusa con i nostri ospiti. Sì, Luca. Sì, buongiorno. Ascoltate, io semplicemente faccio due considerazioni molto veloce. La prima è che secondo me non si può sostituire, cioè, o comunque prendere un semaforo, quindi mettere dei colori a qualcosa per superire a una mancanza di cultura sul cibo. Cioè, prima di tutto ci deve essere una consapevolezza di ciò che si mangia, non basta un semaforo per dare un giudizio sulla qualità del cibo, come avete detto voi, sono perfettamente d'accordo e sono perfettamente d'accordo anche con le considerazioni del Presidente. Per seconda cosa, molto veloce, a questo punto mettiamo un semaforo anche su quello che sono gli additivi sulla carne. Sulla carne, quindi significa anabolizzanti piuttosto che tutta l'alimentazione che, o comunque tutti elementi che sono altamente dannosi per la salute, sicuramente di più che una buona, corretta informazione sull'alimentazione. Allora, grazie. Allora andiamo ai nostri esperti. Mi pare che siamo abbastanza in conclusione. Chiari come posizione, pur non volendola prendere, qua ce l'hanno fatta un po' prendere. Sì. Non ci capita mai, devo dire la verità, però su questo tema siamo ipersensibili. Scordamagli, andiamo verso la conclusione. Messaggio finale, insomma, anche certo. I nostri ascoltatori la supportano, è contento. Assolutamente sì. Due precisazioni. Si parlava di discussione a Bruxelles. Non dimentichiamoci che il Parlamento europeo e la stessa Commissione che ha avviato una procedura di infrazione ha riconosciuto il sistema come non legittimo e discriminatorio. Quello britannico. Assolutamente sì, quindi si ripropone qualcosa su cui il giudizio delle istituzioni comunitarie è già stato negativo. Seconda cosa, qualcuno di noi è realmente convinto che una cosa che costa meno produrre possa avere una maggiore qualità intrinseca? Faccio la domanda, lasciamo perdere poi se il costo di vendita è maggiore o minore. E ultima cosa, l'avete sottolineata voi, bisogna informare correttamente il consumatore. Per esempio, l'indicazione che come industria alimentare italiana noi diamo su quello che il dottor Ghiselli diceva, referencing, cioè se mangi questa porzione, non in senso lato 100 grammi o 100 kg, ma se mangi questa porzione copri l'X% del tuo fabbisogno giornaliero. E quello che facciamo, e certo non abbiamo bisogno di semafori per farlo. Certo. Allora un po' è quello che cerchiamo di fare, l'educazione, l'informazione così a una scelta consapevole che tenga in buona considerazione il nostro benessere e la nostra salute, un po' quello che ci proponiamo di fare a Cuore Denari, sia sulla salute che con l'alimentazione che con i denari. Dottor Ghiselli, una chiusa? Sì, dobbiamo considerare come diceva Scordamaglia, dobbiamo considerare la porzione di quello che mangiamo. Noi abbiamo sulle confezioni degli alimenti quelle meravigliose colonnine che ci dicono questa porzione ti impegna per tot, impariamo ad usarle e non ricorriamo al semaforo. Anche perché, facciamo un esempio banale, se mettiamo il bollino rosso sull'olio d'oliva, possiamo fare, l'industria può mettersi a costruire un dressing per l'insalata costituito da acqua, emulsionanti, addensanti, eccetera, eccetera, che sia a bollino verde o arancione e quindi consumarlo al posto E questa la dice lunga. Dottor Ghiselli, grazie. Presidente Scordamaglia, un saluto. Noi andiamo al nostro GR, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Cuore e denari. Sì, abbiamo degli ospiti in studio oggi che sono venuti a trovarci, ma dobbiamo salutarli molto rapidamente e riprendere sì. Le redini del programma. Mi piace perché è un po' una casetta questo sì, studio. Sì, guarda, qua passano, vengono a trovarci. Entrano in mezzo alla sigla. Adesso porto un bollitore per il caffè, va? Caffè, cioccolato, così energia. Posso dirti che questa idea non capisco perché a distanza di ben 4 anni dalla partenza del nostro programma perché ci stiamo all'improvviso, guarda, le idee. Adesso è primavera, anche magari una bella un succo d'arancia fresco. No, ancora non è l'arancia, ancora. Ormai è andata. Non mi cadda sull'arancio, sulla bollino stagionalità. Rosso, bollino rosso. Ecco, a proposito di bollino rosso, di semafori, tra l'altro le etichette a semaforo hanno davvero mamma accesa mia. La vostra curiosità, ci state scrivendo in tanti e molti di voi anche continuate a farlo raccogliendo il nostro invito, ci stanno raccontando un po' la loro filosofia di spesa. Allora voi che cosa fate? C'è chi va a caccia soprattutto di offerte, chi pianifica un menù e acquista di conseguenza e questo ci permette di evitare degli sprechi, chi si fa invece guidare dalla stagionalità e dall'offerta del territorio. 800 24 00 24, continuate a intervenire, dateci anche i vostri consigli perché noi oggi vogliamo costruire una spesa alla cuore denari, una spesa ottimo. Che ci fa mettere, no? Ci permette di fare il pieno di salute senza naturalmente svuotare il portafoglio. Quindi Deborah, anche la spesa è in un certo senso un investimento. Molto bene. Che ci dà una rendita in termini di soddisfazioni, perché dai, mangiare è uno dei piaceri della vita. Mamma, guarda, non dirmi niente, sai che io approvo. Poi, quello che portiamo in tavola si traduce anche in salute. In salute e anche in anni di vita, vedi come tutta alla fine siamo sempre a cuore denari. Mangiamo. Chissà se ci aiuta a sostenere, ma soprattutto ad argomentare questa tesi che sembra che porti solo acqua al nostro mulino, il nostro prossimo ospite, il professor Landi, che è primario di riabilitazione geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, è tutto cuore denari, quello che mangiamo, quello nel momento in cui andiamo a fare la spesa inizia in un certo senso la prevenzione. La certo. Butto lì. Sì, se non tutto, certamente una buona percentuale. Possiamo, come dire, ormai forse anche una battuta che è stata già un po' utilizzata, ma secondo me è bene rifarla. Noi siamo ciò che mangiamo, o al tempo stesso siamo anche ciò che non mangiamo, cioè nel senso che anche evitare gli eccessi o qualche eccesso certamente ci aiuta ad invecchiare bene, ad invecchiare in salute. E quando diciamo invecchiare non dobbiamo aver paura, dobbiamo dire, cioè, come dire, a progredire nel nostro essere, a preservarci nel nostro essere. E oggi sappiamo tutti che abbiamo una longevità più o meno garantita per le donne oltre 90 anni e per gli uomini ci stiamo sempre, anche se arranchiamo un po' dietro, ma ci stiamo arrivando. Questa longevità ce la dobbiamo garantire però in buona salute, e certamente la spesa e quindi di conseguenza quello che mangiamo, come anche lo cuciniamo, certamente rappresenta un punto straordinariamente importante per la nostra longevità e per una longevità attiva e in pieno benessere. Professore, tra l'altro non c'è un singolo nutriente che allunga la vita o evita le malattie, proprio va seguito uno stile alimentare. Tra l'altro la dieta mediterranea è una delle poche che ha dimostrato di avere un effetto protettivo e preventivo. Esattamente, sono proprio i due concetti che avete espresso, cioè che non c'è un singolo alimento che ci preserverà in buona salute e che al tempo stesso la dieta mediterranea invece ha dimostrato una straordinaria capacità di aiutarci in questo. E quindi le cose sostanzialmente ritornano, perché la dieta mediterranea, la sua caratteristica è proprio la variabilità dei cibi che noi andiamo in qualche modo ad introdurre. Cioè, nella dieta mediterranea la caratteristica è proprio l'alternanza di vari cibi, in particolare l'alternanza, per essere anche chiari e dare dei messaggi significativi, l'alternanza tra quelli che sono cibi del mondo vegetale ma anche cibi provenienti dal mondo animale, cioè non c'è una esclusività dei due, ma c'è sostanzialmente una buona alternanza. Quindi noi dobbiamo programmarci una settimana in cui gli alimenti possibilmente stagionali, per esempio quelli di origine vegetale, si alternino e siano in qualche modo, poi addirittura abbiamo delle quantità specifiche ormai che oggi noi sappiamo, che la scienza ci suggerisce di consumare, che si alternino, come dicevo, anche a prodotti di origine animale, che non significa necessariamente la carne o la carne rossa che sappiamo oggi essere particolarmente demonizzata, ma significa anche gli altri tipi di carne, alcune carni processate, ma soprattutto anche il formaggio, le uova, il latte, in una straordinaria alternanza che è la dieta mediterranea. Varietà. D'altra parte, però, professor Landi, evidentemente siamo nella direzione giusta se nel nostro paese le persone tra i 50 e i 70 anni stanno diventando la fascia d'età in più forte crescita. Quindi mangiamo, ci informate, ci educate, un po' ce l'abbiamo anche culturalmente come abitudine, iniziamo a scegliere sempre meglio. Sicuramente la dieta mediterranea è il nostro, direi proprio, patrimonio culturale e quindi diciamo storicamente in qualche modo siamo abituati a questo. Possiamo però migliorare, ecco, certo. non ci fermiamo a questo, possiamo migliorare, certamente noi stiamo in questi ultimi 5 anni, direi, anche un'occasione molto importante è stata l'Expo Milano, che era proprio centrato sulla nutrizione, in cui abbiamo avuto l'opportunità di fare della ricerca scientifica proprio sui visitatori di Expo. Certamente possiamo migliorare, oggi noi sappiamo ed andiamo a dare qualche informazione chiara e precisa che al giorno noi dobbiamo almeno mangiare 5 porzioni tra frutta e verdura, quindi consideriamo 2 frutti, una bella insalata e un contorno. Questo noi sappiamo che è proprio la base di una dieta, quella che noi chiamiamo col termine anglosassone l'healthy diet, la dieta salutistica. Ecco, se guardiamo queste percentuali ancora non siamo così bravi, diciamo. Uno su 2 degli italiani, grosso modo, riesce ad arrivare a questo tipo di quantità giornaliera. Io ho anticipato ai nostri ascoltatori, nell'anticipazione del GR, che in questa seconda parte di trasmissione, prima di parlare di risparmio tradito, ci saremo così concentrati sui cinquantenni. E per dire, cinquantenni, avanti tutte, state vivendo un periodo d'oro per investire nella vostra salute. Ci sono delle ricerche molto interessanti e ne parleremo tra poco col professor Landi, fa anche quasi rima, ma in linea con noi abbiamo Mario da Foggia. Buongiorno Mario. Mario? Mario se n'è andato. E niente. Vedi che si dice fuggi da Foggia? Non ho mai capito perché, ma invece è fuggito Mario. Ma veramente? Professor Landi, non è mai troppo tardi per rimettersi, per provare a rimettersi un po' in sesto, ma è importante cogliere il momento adatto. Voi avete svolto delle ricerche molto interessanti, c'è una sorta di età ideale in cui è bene prendere o riprendere in mano la nostra salute ed è quella proprio intorno ai 50 anni. Perché? Allora, sicuramente non è mai troppo tardi, questo è un concetto veramente che dobbiamo dire forte e chiaro. Non dobbiamo pensare, dice vabbè, sono stato sedentario tutta la vita, continuo ad essere sedentario. Già io credo più di 20 anni fa, proprio il nostro gruppo qui all'Università Cattolica abbiamo pubblicato chiaramente che anche il settantenne, l'ottantenne che decide di iniziare a fare un esercizio fisico ne troverà beneficio. Oggi noi però sappiamo un'altra cosa importante, perché i cinquantenni? Io direi anche i 45enni, sì. Perché oggi noi sappiamo chiaramente, e 2 settimane fa abbiamo pubblicato questa ricerca che ha avuto una grandissima risonanza anche negli Stati Uniti, che sostanzialmente se noi guardiamo la nostra performance fisica, cioè la nostra capacità in qualche modo di performare sul piano per esempio della camminata, del salire le scale, così come della nostra quantità di muscolo. Quindi andiamo a guardare uno degli aspetti più importanti del nostro organismo, sia in termini strutturali che funzionali. Noi osserviamo chiaramente che fino a 45 anni riusciamo a aumentare e quantomeno a conservare. Da 45 anni in poi cominciamo a declinare. 45-50, quindi significa, come dire, che quello è il punto in cui io devo iniziare assolutamente a cercare di contrastare questo declino che in parte è fisiologicamente correlato all'invecchiamento. È un qualcosa, come dire, di incontrovertibile, però è lì che devo cominciare a prendermene cura, a considerarlo e ad adottare le strategie per cercare di rallentarlo. Mi scusi, professore, ma lei ha parlato di massa muscolare, quindi, ma è un problema di dimensioni, di forza, di tono o tutte queste cose insieme? E poi soprattutto ho capito che intorno ai 45-50 anni c'è una fisiologica perdita di massa muscolare, ma come posso valutarla? Allora, sicuramente sono tutte le componenti, perché noi quando guardiamo il muscolo guardiamo non soltanto la quantità di muscolo. Anche quella, devo dire. Anche quella, professore. Ma non è solo un aspetto edonistico, certamente siamo anche interessati a quello, alla bellezza che in qualche modo il muscolo scolpito può piace, darci. Al suo perché, come si dice, certamente. In un italiano sgrammaticato. Mi piace tanto, anche nella donna. Anche nella donna. Sì. Però... assolutamente, questo vale sia per gli uomini che le donne, il discorso che stavamo facendo e affrontando vale sia per gli uomini che per le donne, però certamente quello che poi nella longevità, quando parlavamo prima di longevità attiva, sarà importante è come questo muscolo funziona, come i nostri muscoli funzionano. Noi a volte, questo è anche un po' particolare, ci siamo negli ultimi 20 anni occupati sempre dell'osteoporosi, dell'osso, pensando alla nostra struttura, allo scheletro portante, all'asse portante del nostro corpo. In realtà tutto è sostenuto straordinariamente dai muscoli e all'interno dei muscoli c'è una, io la chiamo sempre una centrale nucleare metabolica, all'interno del muscolo avvengono dei metabolismi straordinariamente importanti non solo per il muscolo in sé, ma per tutto quanto, per tutto il nostro in qualche modo organismo. Quindi noi dobbiamo andare a guardare la funzione e oggi la possiamo misurare, ma non solo in termini cosiddetti antropometrici, cioè di quantità di muscolo, con la DEXA, lo stesso apparecchio con cui misuriamo la densità delle nostre ossa, ma anche sul piano funzionale, per esempio cercando di capire quanto il mio muscolo sviluppa in termini di forza, con dei dinamometri che tra l'altro hanno un costo assolutamente bassissimo e che io direi ogni medico di base dovrebbe avere nel suo studio. Sì, è molto meno faticoso che fare braccio di ferro con ogni paziente che entra. Esatto. Allora, Mario da Foggia finalmente è tornato. Mario! Sì, buongiorno. Ma dove era finito, Mario? Mi si è la trasmissione, il telefono si è interrotto. Va bene, va bene, dai. Allora, Mario. Sì, le parlo subito di un 54enne iperattivo. Sì. Vorrebbe fare di più. La mia alimentazione, si parla di quello, quindi intervengo in trasmissione dicendo aceto di mele, olio di oliva, miele un cucchiaino la mattina, alghe, camminata per circa 15 km, dormo. Dormo bene circa 7 ore. Alimentazione insalata, poca carne e tanto pesce. Questo penso che sia un qualcosa. Andando poi al dettaglio, l'aceto di mele è di ottima marca, è Sidro Madre, mele intere, bio, preso al mattino con circa 300 grammi di acqua, e al mattino e al pomeriggio. E su questo vorrei chiedere al professor Landi se il dosaggio, un cucchiaio al mattino con buona acqua e uno il pomeriggio, lo posso sempre fare o devo oppure diminuire? Oppure deve diminuire. Intanto grazie Mario. Professor Landi, allora Mario sembra che sappia il fatto suo. Assolutamente sì. Al di là di quelle che possono essere poi alcune abitudini che in parte possono anche essere un po' di moda, certamente l'aceto di mele può andare bene. Direi che io metterei sotto la lente di ingrandimento e quindi darei risonanza ad alcuni aspetti importanti che Mario ci ha detto. Quello che dicevamo prima, l'insalata, la frutta, la verdura al centro della nostra alimentazione. Io dico sempre ai miei pazienti, ma anche agli amici che mi chiedono, io dico quando si parla di alimentazione, provate e proviamo, lo dico anche a me stesso, a mangiare queste 5 famose, famigerate direi ormai, porzioni di frutta e verdura. Se mangiamo queste, poi possiamo toglierci anche qualche sfizio in termini appunto di carne processata, quindi di prosciutto, qualche volta il salame, la bresaola, la carne rossa, ovviamente senza eccedere, però io se parto da quel concetto, cioè che nella mia tavola, nel mio quotidiano ci deve essere questa quantità di frutta e verdura, io poi posso anche permettermi qualcosina in più durante quella giornata, ma semplicemente perché ne ho il beneficio di quel qualcosina in più in termini per esempio di proteine di origine animale e anche in termini di vitamine, per esempio della vitamina B che posso prendere nella carne, e però accelero il transito, quindi come dire l'assorbimento di quelli che possono essere dei componenti negativi in qualche modo viene ridotto dall'accelerato transito che mi garantiscono le fibre contenute nella frutta e nella verdura. Professor Landi, cotto o cruda, ci scrivono gli ascoltatori? Va bene tutte e due. L'importante è mangiarla, e io aggiungo anche andate di colori. Noi abbiamo parlato prima di semafori. Lasciamo un attimo il semaforo, ma i colori del semaforo possono anche essere presenti in un nostro piatto e quello sicuramente ci fa bene. Ma professor Landi, sappiamo che non basta mangiare bene, bisogna anche muoversi bene, scegliere un po' gli esercizi giusti. Anche questo è un investimento per la nostra salute, un'attività cucita su misura. Sì, assolutamente. Noi sappiamo, io quando, come dire, anche in trasmissioni così importanti come la vostra, che portano un messaggio importante alle persone che ci ascoltano, vorrei sempre dire che quello che noi stiamo dicendo non è perché lo pensa Landi Francesco, che poco importerebbe, ma è la scienza che ce lo suggerisce, sono le evidenze scientifiche. Oggi noi sappiamo che quello che mangiamo e l'esercizio fisico creano una sinergia, cioè si potenziano l'uni con gli altri. Questo è estremamente importante, perché chi di noi frequenta un po' le palestre vede che molto spesso girano integrazioni, supplementi, presi quantomeno in maniera scorretta rispetto a quello che noi diciamo al timing, cioè al tempo in cui io devo andare ad assumere questo tipo di alimenti durante o dopo o prima l'esercizio fisico. Ricordiamoci, per semplificare, quando noi facciamo esercizio fisico, quell'esercizio fisico produrrà un beneficio in termini metabolici all'interno del nostro muscolo dopo un'ora e mezza, due. Questo significa che creare la sinergia con quello che mangiamo deve considerare questo tempo. Se io faccio un esempio, prendo delle proteine che assorbo rapidamente e utilizzo rapidamente mentre faccio esercizio fisico, non servono a nulla, anzi sono dannose. Io devo avere la biodisponibilità di queste proteine quando il mio muscolo comincia ad agire come quella centrale nucleare che dicevamo prima. Queste purtroppo sono cose, se vogliamo, anche un pochino tecniche, che non tutti conoscono, ma che dobbiamo imparare a conoscere. Perché queste sono le due strategie vincenti. Ecco, e dobbiamo abituarci a inserire comunque, e se non lo ancora non l'abbiamo fatto, il professor Landi ha individuato un'età, che io dico un'età magica, tra i 45 e i 50 anni, in cui possiamo proprio riprendere un po' il timone della nostra vita e quindi investire in salute. Anche qua torniamo a Cuore Denari, tra l'altro professor Landi sul sito Vivi con Vigore, che è anche il nome di una bella campagna che è promossa da Ask Vita Attiva in partnership con Abbott, che è proprio rivolta ai cinquantenni per così invitarli a darsi una mossa, a occuparsi della propria salute. Ho visto che c'è anche una sezione con degli esercizi consigliati, oltre che una dedicata alla felicità, che professor Landi non ha età. Anche su questo aspetto direi che questo è il terzo pilastro su cui noi possiamo così costruire una longevità serena e sana e duratura. Alimentazione, sport, ma anche un modo di vedere la vita con un altro paio di occhiali rispetto magari a quello che abbiamo utilizzato quando eravamo giovani, ma non per questo meno bello. Assolutamente sì, noi abbiamo anche qui evidenze di nuovo, sono un po' ripetitivo, ma importanti, in cui nei paesi in cui si vive di più, dove ci sono più centenari, alimentazione, dieta, l'abbiamo già detto, sicuramente sono il minimo comune denominatore, ma un altro minimo comune denominatore è la felicità, avere degli obiettivi, avere fede, è che è un altro aspetto estremamente importante, delle relazioni sociali, sono tutti aspetti che sicuramente ci faranno essere longevi, ma ci faranno essere longevi in buona salute. E l'esercizio fisico deve contenere la felicità e la piacevolezza di farlo. È inutile andare incontro ad esercizi fisici che non ci piacciono, attività che non ci piacciono. Noi dobbiamo fare qualcosa che ci piace, che ci fa stare insieme agli altri e che possa aumentare anche questa socializzazione, che è un aspetto fondamentale della nostra vita. Direi che ce lo meritiamo, professor sicuramente Landi. Sicuramente sì. Allora, professor Landi, intanto grazie, ci sentiremo prestissimo. Ricordiamo, alimentazione, attività fisica e tutto condito da una felicità, un po' di buon umore, da uno sguardo a quello che ci circonda, no? Un pochino più positivo e un pizzico di autoironia aiuta sempre. Professor Landi, grazie. Grazie. A presto. Grazie a voi, grazie molte, a presto. E noi andiamo a sentire i mercati. I mercati e poi adesso qua ci dobbiamo mettere ancora un altro paio di occhiali, quelli da sole, un po' per leggere le notizie di oggi, risparmio tradito, un caso vecchio sul quale facciamo un po' di aggiornamento, azionisti ed obbligazionisti di Pop Vicenza e Veneto Banca e poi invece un altro caso più recente, delimitato al territorio lombardo, ma sul quale vale la pena appunto mettere gli occhiali, accendere un riflettore, perché magari non si sa mai che qualche altro caso possa scoppiare anche in Italia e quindi è bene conoscere anche questa tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Dove va il denaro? Per qualcuno insomma se n'è andato, è scappato da una porta ma non rientra dalla finestra, insomma ancora casi di risparmio tradito che purtroppo molto spesso arricchiscono la cronaca finanziaria. E devo dire, per noi sicuramente temi da affrontare che arricchiscono la nostra trasmissione, ma magari ne faremo anche volentieri a meno. Detto questo, oggi dobbiamo parlare di due casi. Allora, per quello che riguarda Veneto Banca e Popolare di Vicenza, le novità le affronteremo a partire dalle 10.45 con il legale di Confconsumatori, l'avvocato Antonio Pinto. Nella prima parte invece facciamo un po' di chiarezza su un caso che è un po' delimitato al territorio lombardo, ma su quale vale la pena puntare un riflettore, perché naturalmente non ce lo auguriamo, ma chissà mai che dovesse scoppiare un caso simile da qualche altra parte d'Italia, magari ci prestiamo un po' più di attenzione. Allora parliamo di una vicenda che vede coinvolta questa volta non una banca ma una cooperativa. Come molti risparmiatori sanno, le cooperative possono effettuare raccolta di risparmio tra i soci che depositano su un libretto aperto presso appunto la cooperativa somme di denaro entro un limite massimo stabilito dalla legge. Somme che sono garantite però non in questo caso da, per esempio come succede per le banche, da un fondo interbancario di tutela dei depositi, ma sono garantite unicamente dagli immobili posseduti dalla cooperativa, quindi non dalla Banca d'Italia. E quindi che succede in caso di insolvenza della società cooperativa? I risparmiatori o rischiano o perdono il capitale investito, nel caso appunto il patrimonio immobiliare fosse insufficiente a ripianare le perdite. C'è un caso che riguarda la cooperativa Unacoop, nata dalla fusione di due storiche cooperative di Bollate, quindi Milano, Urbanistica Nuova e l'Avvenire di Musocco. C'è un commissario liquidatore già al lavoro e ci sono le associazioni dei consumatori che naturalmente stanno in questo periodo soccorrendo tutte le persone che sono rimaste invischiate in questa vicenda, sulla quale ci racconta qualcosa in più l'avvocato Laura Locatelli, legale della Lega Consumatori, che salutiamo. Avvocato, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Tra l'altro voglio ricordare che non è la prima volta appunto che già si verifica un caso simile, non auspicando ovviamente che se ne verifichino altri. Un anno fa erano finite alla ribalta della cronaca i 19.000 soci delle cooperative di Udine e Trieste finite in concordato, e questi signori qui, poveri loro, avevano depositato nei libretti sociali oltre 120 milioni. Invece per il caso di Bollate, avvocato Locatelli, di quanti risparmiatori stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di circa 350 soci risparmiatori per un ammontare complessivo di risparmi pari a circa 15 milioni. quindi con una media di deposito a libretto di circa 40.000 euro. Ecco, tu immagina Nicoletta di avere la certezza certo. su questo libretto di deposito questa cifra che ti si azzera da un momento ad un altro. Avvocato Locatelli, ecco, banalizzo allora, un po', però in realtà un po' la situazione è questa, certo. perché adesso queste persone questa disponibilità finanziaria non ce l'hanno, immagino. Al momento ovviamente non c'è. Come bene lei ha ricordato, appunto, il che cos'è appunto il prestito sociale? È una forma di risparmio che è riservata proprio alle cooperative. E vi è appunto la particolarità che queste somme sono sì garantite chiaramente dal patrimonio immobiliare della cooperativa, ma non ci sono altre forme di garanzia e pertanto appunto quando il patrimonio immobiliare non è sufficiente il risparmiatore rischia purtroppo di perdere il capitale. Ora, noi abbiamo dato assistenza e stiamo dando assistenza a Lega Consumatori, peraltro unitamente ad un'altra associazione di consumatori, Federe Consumatori, e ci siamo attivati chiaramente per porre in essere un'iniziativa utile. Ma possiamo per un minuto magari, avvocato Locatelli, prima di andare alle iniziative che state intraprendendo, ricordare cosa è successo nello specifico a questa cooperativa edificava la zona? La cooperativa è una cooperativa storica di questa zona. Zona. Ha appunto sede sia a Milano che a Bollate, ha edificato appunto diversi edifici nell'Interland milanese. Purtroppo per ragioni diverse sulle quali oggi come dire, è anche difficile andare ad indagare. La crisi immobiliare ci ha messo del suo. Legate, esattamente, certamente legate al mercato immobiliare o a scelte che ovviamente si sono poi rivelate essere non completamente fatte insomma, nell'interesse dei soci risparmiatori. Tuttavia oggi appunto ci troviamo con questa problematica. C'è un commissario liquidatore, come lei ha ricordato, che sta procedendo ora alla formazione dello stato passivo. Una volta poi formato lo stato passivo si dovrà appunto trovare la soluzione. Cosa vuol dire esattamente questo, appunto, se ce lo può tradurre dal termine giuridico per il portatore del libretto appunto sociale? Certo, la soluzione per il risparmiatore va individuata in un soggetto terzo. Un soggetto che può essere una cooperativa, che può essere anche ovviamente un'altra società, che possa proporre in maniera concreta e seria una proposta di piano industriale da presentare nelle forme che sono previste e ancora consentite nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa. Quindi un piano di rilancio, quindi non una liquidazione ovviamente del patrimonio immobiliare frazionato che darebbe poche possibilità di recupero ai risparmiatori, ma appunto un piano industriale di durata ovviamente medio-lunga, stiamo parlando di un periodo almeno di 5 anni. Certo. E quindi il nostro appello è rivolto proprio a società che seriamente vogliano intraprendere quindi questo. Non siete, come dire, per l'azione legale dura e pura contrapposta? Non avrebbe senso in questa vicenda, assolutamente. Non si tratta di individuare in questo caso responsabili di malagestio, ma si tratta di individuare una soluzione che possa appunto assolutamente tutelare al meglio i risparmiatori e tutelare in generale la categoria dei soci della cooperativa con riguardo ai risparmiatori. Accanto a questo so che voi però vi state facendo portavoce anche di un altro tipo di battaglia, quella di dire anche alle autorità facciamo in modo che per le persone che risparmiano con questa modalità si crei una sorta di fondo interbancario, qualcosa di simile appunto ad un fondo interbancario che tuteli le persone che provano ad accantonare qualcosa secondo una modalità diversa rispetto al conto corrente o altri strumenti di investimento, perché non ce l'hanno, no? Lo abbiamo scoperto proprio con questi casi, avvocato. Esattamente, perché appunto il nostro sistema legislativo non contempla per i soci prestatori forme di garanzia invece che sono previste per i depositi bancari. E purtroppo anche le recenti modifiche che sono state introdotte dalla Banca d'Italia, che sono entrate in vigore proprio a gennaio di quest'anno, purtroppo anche se prevedono alcune forme di più garanzia dei risparmiatori, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e quindi la comunicazione che deve essere data al risparmiatore, però purtroppo ancora non prevedono la forma di tutela che invece noi vorremmo, e che è quella proprio dell'istituzione di un fondo di garanzia che chiaramente deve essere finanziato dai contributi delle società cooperative, che possa tutelare almeno in parte il capitale investito dai risparmiatori nel caso appunto in cui si verifichi uno stato di insolvenza come quello che vede oggi coinvolta la cooperativa. Avvocato Locatelli, in 40 secondi di tempo se ce la facciamo, ovviamente ci sono tante persone in Italia che hanno sottoscritto un prestito sociale, un libretto di risparmio presso le allora sì. Naturalmente casi come quelli di cui abbiamo parlato stamattina non ce ne sono, al momento non abbiamo notizie, a parte quello appunto dell'area di Udine e Trieste che abbiamo richiamato prima. Per chi adesso avesse un pensiero su quello che ha fatto, che cosa gli facciamo controllare rapidamente in modo tale che si possa rassicurare sulla validità del suo accantonamento? Sicuramente verificare il patrimonio immobiliare della cooperativa, verificare il valore dello stesso, e in questo modo è già una garanzia per il risparmiatore, perché appunto il risparmio è garantito unicamente dagli immobili. Quindi questa è già una prima verifica che ogni risparmiatore può fare in maniera anche abbastanza immediata e abbastanza semplice. Avvocato Locatelli, ci faccia sapere se ci fossero delle novità sui risparmiatori coinvolti appunto nella vicenda della cooperativa Unacop di Bollate. Intanto grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei e buona grazie giornata. Agli ascoltatori. Buona Adesso giornata. Andiamo al traffico. Volentieri. E poi andiamo invece su un'altra bella patata bollente, che è quella di Pop Vicenza e Veneto Banca. Tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Cuore e denari. Dove eravamo rimasti? Beh, adesso ve lo diciamo. Intanto salutiamo il nostro ospite, l'avvocato Antonio Pinto, legale della Confconsumatori. Buongiorno avvocato, ben ritrovato, grazie. Buongiorno a voi e al vostro ascoltatore. Allora, abbiamo Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, che come ricorderete a gennaio hanno lanciato questa iniziativa transattiva rivolta ai propri azionisti colpiti dal quasi annullamento del valore dei titoli in loro possesso. Questo indennizzo pari al 15%, al quale peraltro si erano aggiunte anche delle proposte commerciali riservate a chi aderiva alla transazione. Cosa abbiamo scoperto? Che la transazione sta volgendo al termine, le adesioni non sono moltissime e qua si sono scatenate appunto le preoccupazioni, perché se non raggiungono almeno l'80%, attenzione che la banca rischia seriamente il bail-in. Io ho molto banalizzato e sintetizzato, perché non abbiamo molti minuti di tempo, appunto avvocato Pinto, ricordo velocemente che la Popolare di Vicenza aveva proposto un'offerta che riconosceva 9 euro per azione per ogni azione che era stata acquistata tramite una banca del gruppo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2016. Veneto Banca proponeva più o meno la stessa cosa, un indennizzo forfettario e omnicomprensivo pari al 15%, qua devo parlare in termini tecnici, della perdita teorica sofferta per gli acquisti di titoli della banca, sempre in questo caso effettuati appunto fra il gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016. Avvocato Pinto, allora le adesioni non sono molte, anche se stamattina Katy Mandurino sul Sole 24 Ore racconta che c'è stata un po' un'accelerazione nelle ultime 48 ore, questo dopo che c'è stato l'incontro appunto fra i vertici delle due banche e il ministro del Tesoro Padoan. Ci fa un punto della situazione secondo le associazioni dei consumatori, cosa dobbiamo sapere in questo momento? Sì, noi confermiamo che riteniamo l'offerta assolutamente irrisoria. Mai come in una vicenda del genere ci sono tanti documenti ufficiali, formali, di provenienza assolutamente autorevole, quindi si parla di verbali ispettivi della BCE, di Banca d'Italia e di Consob, che hanno accertato come queste banche nel precedente management abbiano effettivamente eseguito vendite abusive. E allora non si capisce perché, se lo stesso commissario alla concorrenza europea 2 o 3 giorni fa diceva che ci sono molti modi per rimborsare i detentori e i risparmiatori che hanno subito vendite abusive, poi dopo 2 giorni stranamente è stata così indotta un attimo ad aggiustare il tiro dicendo che ma io mi riferivo solo agli obbligazionisti e non agli azionisti. Agli azionisti. No, tra l'altro quando parla avvocato Pinto di vendita abusiva significa per esempio chiedere al risparmiatore cliente di questa banca che vuole il mutuo, sì te lo concedo solo se tu contestualmente sottoscrivi azioni e obbligazioni della banca, no? Queste sono un po' quelle che voi... Però nel caso di Veneto e Vicenza la prima linea di abusività, così possiamo definirla, abusività è stata nel fatto che i bilanci erano totalmente, il prezzo delle azioni si sono dimostrati essere totalmente diversi da quelli reali. Proprio il Sole 24 Ore riportava, credo ieri, il dato secondo cui i crediti deteriorati ammontino per Veneto Banca a 7,9 miliardi di euro e per Banca Popolare di Vicenza a 9,39 miliardi di euro. Questi sono numeri che si sono stati resi noti solo nel 2015 e mai prima, quindi ad averli saputi prima insomma ci sono tutte le autorità incaricate di ricostruire il passato di queste due banche. Detto questo, allo stato attuale, allora abbiamo detto che le adesioni alle proposte transattive evidentemente non soddisfacenti per i malcapitati sono procedute molto a rilento, a prescindere dall'accelerazione delle ultime ore. Avvocato Pinto, se non dovesse arrivare all'adesione all'80%, cosa succede soprattutto per i risparmiatori che voi seguite? Ma io, guardi, eviterei il terrorismo psicologico che è stato fatto in questi giorni, nel senso che non è che adesso, con tutto il rispetto, se un solo analista di JP Morgan dà il consiglio di vendere le obbligazioni senior delle banche, poi si deve scatenare un panico, anche perché quelle obbligazioni sono regolarmente vendute sui mercati, hanno un tasso interessante, quindi non c'è motivo per farsi prendere dal panico. Io altri fatti che possiamo dire, escluderei un rischio di bail-in delle banche, delle due banche, ma fondandomi appunto su alcuni dati abbastanza evidenti. Cioè, i proprietari delle due banche, al 97%, come è noto, il Fondo Atlante, che è un consorzio che raggruppa tutte le principali banche Intesa, Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti, che ha già investito 3,5 miliardi di euro in queste banche. E quindi è difficile pensare che un fondo così forte, che ha già fatto un investimento così alto, rischi di... E questa è la vostra convinzione, ammettendo che venga scongiurata proprio l'estrema razio, l'ipotesi estrema. Andiamo ai risparmiatori che seguite, avvocato Pinto, appunto al momento, appunto una volta che avremo, anche se probabilmente ci sarà una proroga per la possibilità di aderire all'offerta transattiva o meno, arrivando a fine marzo, ammettendo che non ci siano state adesioni sufficienti, cosa suggerirete di fare ai risparmiatori traditi? Noi abbiamo già sinceramente attivato tante cause, tante azioni giudiziali contro la banca venditrice, proprio fondandole, dove abbiamo chiesto il 100% dell'investimento, ritenendo che l'acquisto che è stato fatto all'epoca era assolutamente invalido perché fondato su numeri totalmente falsati come prima linea difensiva. Questo però significherà procedere in questo senso per ogni singolo risparmiatore, che dovrà dimostrare la modalità con cui ha sottoscritto il proprio investimento, oppure prevedete di poterlo fare per un gruppo, per gruppi ampi? Guardi, no, lo stiamo facendo già per gruppi ampi da 10. Purtroppo in Italia, come dicevo, non c'è la possibilità di applicare la class action ai prodotti finanziari. Però la cosa che stiamo facendo per creare economie di scala, anche sui costi, è quella di fare azioni per gruppi, così cumuliamo 10 persone, anche per non gravare troppo il tribunale di fascicoli troppo voluminosi che poi avrebbero problemi. Però in questa maniera è una soluzione intermedia che consente appunto di non gravare di eccessivi costi i risparmiatori, però poi di dare una speranza concreta. Tra l'altro il tribunale competente è il tribunale delle imprese, che dovrebbe essere abbastanza specializzato su questo tipo di vertenze, e quindi speriamo di poter in questa maniera far ottenere il 100%. Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per capire come andrà. Vediamo se ce la faccio a sentire Giorgio dalla provincia di Vicenza, ma deve farci la sua domanda in 20 secondi. Giorgio, Salve, senta, io vorrei partecipare, vorrei aderire alla offerta che fa la Popolare di Vicenza, ma ne vengo escluso perché ho sottoscritto le azioni in un'altra banca, il dossier titoli da un'altra parte, vedo banca, Giorgio, sì. Grazie. Avvocato Pinto, le risulta che può capitare anche questo, non può aderire all'offerta transattiva della Pop Vicenza perché le azioni le ha comprate altrove? Purtroppo è così. La banca ha fissato, con una delibera del CDA dell'epoca, ha fissato una serie di requisiti e di condizioni, e una delle condizioni era sì, di avere, che il collocamento fosse stato eseguito presso la Popolare di Vicenza. Questo mi era sfuggito, ma insomma vale la pena probabilmente indagare anche su questo aspetto per approfondire le motivazioni per cui ci siano queste esclusioni, per cui al momento possono aderire solo coloro che hanno fatto la sottoscrizione diretta presso gli sportelli bancari delle due banche interessate. Esatto, sì. Avvocato Pinto, grazie per essere stato con noi, abbiamo terminato, ma tanto grazie, ci ritorneremo a breve, credo che nel giro di un paio di settimane dovremo ritornare sull'argomento. Cara mia, noi buon ci weekend. Salutiamo, buon weekend anche agli amici senza di Cuore Denari, sarà dura. Però, telefonami. Certo. Io vado a vedere il mio ponte crollato nelle Marche, insomma, in che situazione siamo giù. WhatsAppiamoci. Esatto, buon weekend a tutti, a presto.